Africa 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. A tutti, state sentendo il rondò veneziano, che è la stessa musica con la quale abbiamo esordito nella puntata di ieri. E gli ascoltatori che ci seguono fedelmente, tra l'altro li ringrazio perché sono sempre di più, si chiederanno: ma come mai questo ci propina la stessa musica del sabato e la stessa musica la domenica? Perché parliamo dello stesso argomento declinato in modo diverso. Ieri abbiamo visto come il Veneto sia una delle regioni nella quale la manifattura e l'industria sono in ripresa più forte e significativa. Oggi parliamo di un caso importante di ripresa manifatturiera, soprattutto un caso dove c'è un forte genius loci e nel quale si sostanziano le cose che abbiamo detto ieri sulle imprese significanti. L'azienda è la Foscarini, che è il terzo produttore di lampade in Italia, dopo la Flos che fa 170 milioni, l'Artemide che fa 120 milioni, troviamo la Foscarini che farà 45 milioni, però rispetto a tutti questi tre è probabilmente il più redditivo, perché c'è un EBITDA che è del 15-20%. Della Foscarini, del suo essere un'impresa significante e della sua storia che è affascinante, parte da Murano, ne parliamo con il suo attuale azionista e managing director, Carlo Urbinati. Buongiorno. Buongiorno. Allora, voi, impresa significante perché sapete come fare, decidete voi quali sono i prodotti che sul mercato si potrebbero imporre e vi rivolgete a chi sa che cosa fare, cioè ai fornitori. Voi avete tutta una rete di fornitori esterni che di volta in volta mobilitate a seconda dei progetti che avete in testa, garantendovi la massima flessibilità, e forse questo è uno dei segreti del vostro successo. Beh, sicuramente quello che va considerato il nostro asset principale, perché ci garantisce la libertà più assoluta di fare bene o di sbagliare senza essere condizionati da realtà produttive proprie. La libertà è un po' una sua fissazione. Lei non vuole essere condizionato dai limiti della produzione, non vuole essere condizionato dai limiti della rete vendita, non vuole il private equity, non vuole la borsa perché sono condizionanti, non vuole avere troppi negozi perché sono condizionanti. Insomma, lei è uno spirito libero. Beh, ci proviamo, diciamo che fino adesso ci siamo riusciti e ci è piaciuto, quindi per il momento non ci sono condizioni per andare a cercare equilibri diversi. Beh, è un po' affascinante come teoria. Insomma, voi siete una manifattura senza la fabbrica. Esatto. È un po' un paradosso. Un forte paradosso da un certo punto di vista. Non abbiamo la fabbrica interna e questo ci garantisce, tra l'altro, la possibilità di rivolgersi di volta in volta a quelli che possono essere i fornitori locali. Per esempio, c'è la storia di una vostra famosa lampada che è fatta con delle canne da pesca ad alto valore aggiunto prodotte da una fabbrica che sta a Udine. Ci racconta velocemente come si chiama questa lampada, come è fatta e come si lega alle canne da pesca? Beh, la lampada si chiama Twiggy perché è particolarmente esile nella sua forma. È stata sviluppata partendo da un concetto di Mark Sadler, il designer che l'ha ideata, e l'idea portante era quella di usare una canna da pesca per appenderci una fonte luminosa in fondo. Quindi dal punto di vista dell'interior design si tratta di affrontare un tema importante, affascinante e anche molto ricco, che è quello di decentrare il punto luce nell'ambito di un arredamento, svincolandosi, se vogliamo tornare a un tema di libertà, dalla necessità di appendere qualche cosa o di avere la spina a disposizione. Dal punto di vista pratico, questo ha significato tradurre delle tecnologie che potevano essere interessanti solo per un aspetto, quello della flessibilità, applicate al mondo della pesca, e in questo caso tradurle alla fine in un apparecchio elettrico, concettualmente parlando. Ecco, di canne da pesca, di manifattura e di aziende venete che funzionano parleremo ancora fra poco, ma intanto avvisi sul traffico e pubblicità. Stufe, caldaie, termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Fabbrica 2.4. Thank you. Rieccoci in linea con Carlo Urbinati, che è il Dominus della Foscarini, terza azienda di lampade a livello italiano e soprattutto caso di manifattura che funziona, che si collega al discorso che abbiamo fatto sull'industria del Veneto che sta riprendendo, ma è un'industria nel quale c'è stata una forte selezione. Adesso sono emerse, stanno emergendo aziende produttive che hanno un'identità precisa e soprattutto hanno un concetto di innovazione di prodotto che in qualche modo impongono o propongono al mercato prima ancora che il mercato sappia di volerlo. Oltre alla Twiggy, ci sono altri casi di lampade fatte in collaborazione con fornitori locali? Come noi, ha cominciato a Murano, non c'è niente come il vetro di Murano che si fa da queste parti da mille anni, per avere una sfida di utilizzare delle tecnologie, dei sistemi di lavorazione e ottenere ancora qualche cosa di nuovo che non sia stato realizzato. Un esempio quale può essere? Noi abbiamo delle lampade in collezione che hanno rappresentato una tecnologia, un approccio nuovo anche nel mondo del vetro, perché riportano delle finiture secondarie, quelle che si possono definire così, cioè finiture superficiali su un vetro soffiato a mano, che non erano state tentate prima e che hanno arricchito il vetro di nuovi significati. Le lampade, pur fatte in vetro, riescono a riprodurre delle sensazioni tattili e visive più proprie di lampade di carta, per esempio. Sì, anche se poi voi avete sperimentato anche con la plastica. Sì, noi abbiamo usato spesso anche materiali plastici vari, ma abbiamo ormai in catalogo una quindicina di materiali diversi e una ventina di tecnologie per usare questi materiali. La nostra volontà di scegliere all'interno delle proposte che ci vengono fatte quelli che sono dei significati che ci interessano. Finché non riusciamo ad ottenere qualche cosa che si avvicina a quello che abbiamo letto nel concetto iniziale, è possibile, ed è successo spesso, che si cambino materiali e tecnologie. Insomma, voi fate progetti di luce abbinati all'uso di materiali che di volta in volta variano. Quello che guida il risultato finale che si vuole ottenere. E tutti i vostri fornitori sono nel raggio di 100 km dalla vostra sede, che è a Marcon, in provincia di Venezia, Venezia Mestre? Non proprio, non tutti. Quanti? L'ultima annata, la grande maggioranza. Insomma, 80%. Abbondante, però sì. L'ultima nata è una lampada fatta con una carta speciale giapponese, che è fatta in Giappone perché lo sanno fare solo loro quel tipo di... Però il progetto chi l'ha fatto? Il progetto l'ha fatto un designer muranese insieme ecco. A un designer giapponese. Ma infatti lei ha un concetto di Made in Italy che è un po' originale, insomma Made in Italy è relativo a dove il prodotto è stato pensato secondo lei? Ma forse da un certo punto di vista ancora di più, secondo noi il Made in Italy è quel tipo, quell'approccio, quello stile che si è affermato nel mondo, ma soprattutto è stato originato dalle possibilità delle capacità artigianali che esistono in Italia. Questo è per dire che esiste un design collegato ad ogni cultura estetica, quindi non è una cosa che si possa... di cui ci si possa appropriare sotto una bandiera. Il design italiano è quello che forse ha fatto più strada in certi mondi grazie al fatto che nel nostro territorio erano disponibili delle abilità artigianali prima ancora che industriali che lo hanno reso possibile come quantità, come... Io sono reduce da un viaggio che ho fatto in Veneto visitando diverse aziende e ho potuto vedere che c'è una ricchissima rete di fornitori che lavorano per le aziende più varie, aziende come la sua, ricevendo di volta in volta delle commesse, e l'attribuzione di senso glielo fa la fa chi è all'inizio della filiera. Per esempio c'è un'altra azienda di cui parleremo nelle prossime puntate, la NICE, che fa sistemi di controllo per cancelli, aperture automatiche e altre cose ad alto valore aggiunto, e che lavora facendo il disegno, facendo lo stampo, e poi anche lei, come voi e come centinaia di altri committenti finali, si nutre della rete di fornitori locali che offrono una geometria variabile e un'estrema flessibilità. Questo è lo schema di riferimento a cui ci appoggiamo anche noi. Ed è giusto pensare che chi fa il lavoro come noi in questo ruolo ha un compito di critica, di selezione di quelli che devono essere i risultati finali, di riuscire a immaginarli, riuscire a pensare di portarli sul mercato e di trarne dei risultati positivi, e quindi fa certo senso pratico da capocommessa, in un altro senso più strettamente aziendale, le nostre sono, in questo caso, sono aziende che hanno un progetto di azienda e nell'ambito di questo progetto si muovono nel selezionare e nel sviluppare i loro prodotti. La Foscarini era nata negli anni 80 e faceva soprattutto il contract per l'arredo, raccogliendo commesse dai paesi arabi. Poi sono arrivati due designer come Carlo Urbinati e Alessandro Vecchiato, che hanno man mano imposto la produzione su catalogo di lampade proprie, prodotti propri e non nati dal contract. All'inizio il catalogo era il 20%, poi è diventato il 100% come ora. La cultura del contract ha lasciato nel DNA dell'azienda il fatto di fare il capocommessa e la flessibilità, e grazie a tutto questo è venuto fuori il terzo produttore italiano di lampade. Ecco, che cosa ci dice di questa storia? Dico che sì, abbiamo ribaltato la logica che ci ha guidato all'inizio. All'inizio noi non ci consideravamo nemmeno responsabili del risultato finale dal punto di vista estetico, naturalmente, in quanto eravamo meri produttori materiali, coordinavamo tutte le varie fabbriche che dovevano essere coinvolte per realizzare progetti speciali, dove per progetti speciali si intendono progetti di illuminazione che coinvolgevano vetri di Murano soffiati e che potevano arrivare a svariate tonnellate di peso e avevano problematiche che non sono di tutti i giorni e soprattutto sono disegnate per un posto particolare, quindi cose che non si ripetono più. Noi abbiamo avviato invece una cosa in cui siamo noi responsabili, se il prodotto. E voi volete piace, essere leader piace. Di pensiero? Beh, noi speriamo di riuscire a interpretare in questo modo la necessità che hanno tutte le realtà di brand, cioè quella di differenziarsi e di riuscire a ottenere un'identificazione molto particolare nel panorama. Ecco, ma per essere leader di pensiero voi alle volte fate anche dei prodotti che la vostra rete commerciale vi ha detto ma forse non sono il massimo, o addirittura dei prodotti che non hanno un immediato ritorno economico. Sì, questo fa parte di quel concetto a metà fra libertà e audacia, cioè se si fa riferimento in maniera estensiva a un approccio, diciamo, più di mercato, è più facile rimanere vittima di una visione da specchietto retrovisore, cioè si scambia quello che si vende oggi con quello che si potrà vendere domani, e questo non fa i conti positivamente con l'essere innovativi. E ogni tanto noi, se ci dobbiamo attribuire delle capacità, siamo stati in grado di andare avanti lo stesso, anche se chi guardava lo specchietto retrovisore riteneva di non vedere dei grandi successi. Ed è solo grazie anche a questa forma di coraggio che possiamo annoverare nel nostro catalogo pezzi che altrimenti forse non sarebbero lì. Però poi alla fine lei ha fatto arrabbiare tutti, perché ha fatto arrabbiare il primo proprietario della Foscarini, tant'è che poi voi avete preso la maggioranza e uscito. Ha fatto arrabbiare il vostro socio, quello che c'era all'inizio, ha fatto arrabbiare la rete vendita. Insomma, lei dice: io litigo con tutti perché tanto quel che mi interessa è andare d'accordo col cliente, che infatti vi premia. Beh, in teoria si lavora tutti per quello. Nella realtà non credo che sia corretto dire che ho fatto arrabbiare nessuno. Cioè, no, c'erano delle volontà precise, e così come semmai io non credo che si possa dire che noi, nel proporre cose che poi si vendono, facciamo arrabbiare la nostra realtà. No, all'inizio la contraddicete e poi però si dimostra che avete ragione voi. Da qualche parte bisogna rompere il gioco, se si sta sempre dentro. Ma infatti è affascinante quello che lei dice, mi piace moltissimo, mi diverte. Sì, ma i nostri 2800 clienti sparsi nel mondo, rivenditori, sanno e hanno anche imparato a darci una certa fiducia. Quando proponiamo qualche cosa che non è stato già visto, mi sento di dire che fa parte del nostro patrimonio costruito in tutti questi anni di lavoro il fatto che magari, se viene da parte nostra, ci guardano dentro un po' di più e magari provano. Ecco, voi vendete il 10% delle vostre lampade su internet, e queste vendite non sono, secondo lei, merito del canale di internet, ma sono merito della notorietà del brand, che poi quelli che già lo conoscono lo comprano su internet, è così? Sì, noi non vendiamo direttamente su internet, il 10% del nostro venduto transita attraverso siti di vendita sul web. quello che sostengo io è che dubito che si possa acquistare una lampada delle dimensioni e dell'impegno che richiedono le nostre attraverso una piccola presentazione, una rappresentazione fotografica piuttosto contenuta come dimensioni. Parlo di lampada. Ecco, questa idea del pensiero che prende forma mi fa venire in mente che è come fosse la volontà che si dà una forma, esattamente come avviene con la luce che si dà una forma. Sì, è anche vero che la forma contribuisce a far lavorare la luce in una certa maniera, contribuisce a sottolineare certi aspetti. Progettare una lampada e lavorare con la luce significa progettare le ombre, quindi significa capire come la forma che contiene la fonte luminosa interagirà con la fonte stessa e determinerà il modo con cui si leggerà lo spazio. Ecco, io andrei avanti a parlare con lei per ore e ore, intratterrei gli ascoltatori che sicuramente ne sono desiderosi per tutto il pomeriggio, ma ahimè mi tolgono la linea perché la trasmissione dura 20 minuti. Mi propongo di averla ancora nostro ospite in future occasioni, la saluto e la ringrazio.